already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Dunque, excuse me. Sega. Bipicen. Noio. Sega. Ha capito? Capito. Dopo vi spiego. Noio. Volevant savoir. Noio volevant savoir l'Idris. Ya. Ya. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate! Dunque... Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano appunto, qua! Appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare... Per andare. Dove dobbiamo andare. Andare. Per dove dobbiamo andare? Andare. Cioè, è una semplice informazione. Sentite. Sì, sì, sì. Se volete andare sì, al manicomio... Sì, signore. Vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Altri tempi, bei tempi. Adesso mica si va a Milano, si parte tutto al più da Milano e si va alla conquista del mondo, però certo sto problema della lingua è sempre un po' lì, no? Tanto più se si va in Cina, anche se magari sei primo ministro, poi arrivi lì a Pechino, sono dolori a dire al tassista dove andare. Di fatto la spedizione italiana, e che spedizione italiana, è arrivata a Pechino, sicuramente se ne avranno dei giovamenti, ma noi abbiamo un modo più semplice, vero Emiliano, di sapere che cosa sta succedendo dal momento che è il primo ministro, no? Silvio. Dunque, Berlusconi è in Cina, a Pechino, da pochissime ore. Di fatto non dorme, perché ieri sera fino alle 8 di sera era qui in Italia, è partito nella notte. Io anche contando non ho capito come ha fatto. È partito nella serata di ieri dall'Italia, è arrivato a Pechino, appena atterrato ha subito incontrato una nutrita, ma neanche troppo, delegazione della comunità d'affari italiana in Cina. Ha dormito in aereo. In esatto, poi domani avrà il grosso appuntamento invece con il settimo vertice dell'ASEM, che è l'Asia Europe Meeting, quindi l'incontro tra i capi di Stato, i primi ministri dei paesi europei ed asiatici. Però prima ha voluto incontrare questa delegazione degli uomini d'affari della comunità d'affari italiana in Cina, e chi c'era inviato specialissimo, segretissimo, di chi volete che ci fosse Ming, se non il nostro Saro Capozzoli, che naturalmente ha messo naso, occhi e soprattutto orecchi all'interno di questo importante appuntamento. Però sto fatto che dorme in aereo, insomma, ma chi glielo va a fare, un uomo veramente che comunque poi Berlusconi era in grande forma, come poi sentiremo dalla viva certo voce di Saro. Saro naturalmente non può essere in diretta con noi adesso, perché in questo istante sta beatamente lui mangiando a Piazza Italia, questo mega ristorante, questo mega centro dell'enogastronomico italiano nel bel mezzo di Pechino, quindi sarebbe stato brutto un po' allontanarsi dalla tavola ristretta e venire al telefono con noi. Però insomma l'ho pedinato per tutta la giornata e quindi abbiamo fatto una sorta di piccola cronaca dell'antefatto e poi dell'evento, dell'incontro con Berlusconi, che in qualche modo vi racconteremo a puntate nel corso di questa puntata. Bene, allora andiamo così, con la fantasia, all'aeroporto di Pechino. A terra il primo ministro. Sono arrivato appena adesso da Shanghai, c'è un'ora fa praticamente, dopo due ore di ritardo che ha portato l'aereo su da Shanghai a Pechino, e mi sto recando adesso qui al Ritz Carlton, dove ci sarà l'evento stasera, l'incontro appunto di Berlusconi e il suo team di ministri e collaboratori, che incontreranno appunto la comunità italiana. Ecco, adesso sono su un taxi, a fatica sta raggiungendo il posto, perché qui, dato che hanno bloccato un po' molte strade, è diventato molto difficile proprio muoversi qua. Ecco, penso che fra poco bloccheranno tutto, perché per far passare il convoglio di macchine del presidente con la scorta eccetera avranno praticamente bloccato tutto. Come sono state le procedure per accreditarti a questo appuntamento? Ci sono stati dei problemi o è stato semplice? No, ci hanno invitato nominalmente, no? Abbiamo ricevuto un invito, abbiamo dovuto confermare nel giro di un paio di giorni e abbiamo dovuto dare appunto il nostro numero di cellulare e la disponibilità appunto per poter venire qui, ecco. Beh, sono soddisfazioni, perché non è solo Bush che blocca Roma ogni volta, e viene spesso, ogni volta che viene nella capitale. Anche noi, anche quando Berlusconi andiamo all'estero, Pechino la mettiamo in ginocchio. Tanto poi Berlusconi, sempre che riesce a fare tutto con grande rapidità, è riuscito anche a incontrare Hu Jintao, poi ne parleremo tra pochi minuti. Insomma, quindi questa era la prima fase, la prima tappa di avvicinamento, certo, di Saro. L'abbiamo chiamato in quel caso lì alle 11 di questa mattina, quindi alle 5 di pomeriggio a Pechino. Bisogna fare più 6 nel conto del fuso orario. Per la cronaca vi dico che ad un certo punto Saro è sceso dal taxi, quasi stizzito perché non si andava alla New Yorkese, detto, vado a piedi che arrivo prima, come nei film americani. Bene, secondo contatto fra Emiliano e Saro, siamo dentro la sala dell'incontro e Berlusconi sta per arrivare, ascoltate. Se siamo, vedo circa 300 persone, pensavo di meno. Vedo anche molta gente anche dall'Italia, quindi non riesco a capire chi viene dall'Italia a seguito o chi è proprio un qui, perché molta gente non la conosco. Berlusconi è arrivato alle 3.45 con un'ora di ritardo, quindi qui arriverà alle 7, sembra, perché appunto aveva anche gli incontri da fare prima di venire qui e quindi si è un po' esercitato tutto di un'ora. Qui c'è gente che ha fatto anche 2000 km di volo, di aereo per venire fino a qui, quindi siamo sparsi un po' per tutta la Cina, quindi ho visto gente che viene anche da Hong Kong, sono venuti apposta qui appunto per assistere, essere presente. È un momento, diciamo, non è mondano, ecco, anche l'interesse di sapere che cosa si dirà, eccetera, anche perché abbiamo capito che questo incontro che avverrà domani sarà abbastanza importante, non se ne è parlato molto qua in Cina, però abbiamo capito che è anche un incontro importante per quanto riguarda l'economia del mondo. Hai trovato qualche amico in questa trasferta pechinese? Ma ho visto, ci sono parecchi di clienti, abbiamo parecchi clienti, abbiamo sì, qualche anche funzionario di ambasciata, che diciamo bancari, le banche sono presenti ovviamente. Quando facevamo questo tipo di incontri negli anni 90 eravamo 40-50 persone, si portavano anche gli zii, i figli, tutti per far numero, per poter appunto per riempire una stanza. As the sky is falling, I question whether he has the best intention. Say what you feel, chi è ormai lo dovreste aver imparato, perché ve la propiniamo in apertura del programma ormai da una settimana, perché ci piace un sacco, abbiamo scoperto che piace un sacco anche a voi. Si chiama Stephanie McKay, dritta sparata dal Bronx. Alcuni messaggi sempre sapidi e intelligenti dai nostri ascoltatori. Segnalo quello di Luca da Bergamo, che pone un interrogativo ficcante al quale io vorrei che tu avessi, dimmi perché non posso una, leggere, una risposta. Lo so, te l'ho tenuto nascosto, era già arrivato da un po', ma me lo assaporavo. E ci chiede, in relazione all'arrivo di Berlusconi e all'incontro con il nostro Saro Capozzoli, scusa, ma Paolo dov'era? Paolo non è stato invitato, oppure l'invito non ha raggiunto il destinatario. Non abbiamo notizie di Paolo, però, anche se lui avrebbe avuto buoni argomenti, direi, per andare. Se c'era incontro. Un uomo che aveva delle domande, secondo me era Paolo. Forse anche Berlusconi avrebbe avuto delle risposte importanti per Paolo. Forse aveva anche potuto aiutare. Forse anche un mandato di comparizione. Comunque Paolo, il nostro eroe, il nostro italiano all'estero in cerca di fortuna e invece non in cerca dell'amore, perché quello l'ha già trovato. Non vi preoccupate, Paolo tornerà prestissimo, intanto arrivano immediatamente le notizie. Prima pagina. Naturalmente il racconto di Saro prosegue, più avanti sentiremo certo, poi come certo. È andato questo scoppiettante, anche se molto importante e significativo. Saro era molto convinto, insomma, delle parole poi dette da Berlusconi in questa ora e mezza, credo, di incontro. Però Saro ci ha anche detto che prima di incontrare la delegazione degli uomini d'affari italiani in Cina doveva fare dell'altro. Berlusconi, tra le cose di sicuro non secondarie che ha fatto Berlusconi oggi, è stato quello di incontrare Hu Jintao, quindi il presidente cinese. È stato questo caloroso incontro nel quale Berlusconi ha anche colto l'occasione per fare i complimenti per le Olimpiadi di agosto. Ha detto: sono veramente lieto di essere qui, mi è spiaciuto mancare alla cerimonia d'apertura, ha detto Berlusconi, per un impedimento familiare. Credo, se non ricordo male, che andò Frattini, il nostro ministro degli esteri, a presenziare alla cerimonia d'apertura allo stadio Nido d'Uccello. Però dice: ho seguito ogni giorno in TV, continua Berlusconi, le gare e devo farle grandi grandi complimenti, siete stati fantastici. I nostri ascoltatori sono molto reattivi sull'argomento, dunque vediamo. Simo ci spiega a noi che, come al solito, Simo è un precisatore, ci spiega a noi che avevamo saltato il capoverso, che Silvio dorme 3 ore a notte. Questa cosa si dovrebbe sapere perché è stata molto scritta, quindi facciamo ammenda. Un altro ascoltatore invece ci dice che ha un doppia piazza sull'aereo, ma invece sbaglio, perché io quell'aereo uno lo conosco, perché una volta in qualità di disgraziato dietro giornalista ci ho viaggiato, e c'ha questa stanzetta che non è poi granché, a meno che non sia un altro aereo. Quante lusinghe, ma quali lusinghe? Qui è un programma che parla di America, Cina, Italia, una triangolazione. Il primo ministro che va in Cina a fronte di nostri amici osservatori italiani in Cina che ci dicono che le cose non vanno come dovrebbero, che tante cose andrebbero raddrizzate. Vediamo se qualcuna si raddrizza, o almeno se ne parla ancora. Piero da Vicenza conferma l'attitudine: già si vede poco in televisione, è necessario anche un servizio alla radio. Noi questo abbiamo, ragazzi. Prego. Allora, restiamo con le cronache della Cina. Purtroppo dobbiamo aprire una finestra molto, molto dolorosa, perché torniamo a parlare del terremoto del Sichuan. C'è stato un suicidio che ha fatto molto clamore, perché un funzionario della contea del Beiquan, una delle zone più colpite dal sisma di maggio, si è suicidato appunto a 6 mesi dal terremoto. Nel terremoto aveva perso il figlio di 12 anni. Questa è una nuova piaga che si aggiunge alla situazione già terribile del martoriato Sichuan. Tra l'altro pare che in questa contea si sia affermato, per così dire, un nuovo modo per salutarsi davvero macabro. Quando uno ti chiede come stai, la persona alza la mano e con le dita indica il numero dei familiari persi nel sisma. Quindi è veramente una cosa tragica. Ci sono poi delle ricerche che dimostrano che almeno il 30% dei sopravvissuti al sisma, ma che però hanno avuto danni, diciamo, collaterali, insomma hanno perso comunque dei familiari, inizia poi a soffrire di depressione, ansia e paranoia, e almeno la metà di questi, cioè quindi il 15% complessivo, potrebbe addirittura arrivare al suicidio. Ricordo che a Beiquan, la contea nella quale si è verificato questo fatto terribile, la metà dei 20.000 residenti è morta nel terremoto del 12 maggio scorso. È uscita una comunicazione del governo federale americano che rende nota una lista di 2.500 persone che sono state giudicate no-fly, che in sostanza non è solo una zona ma anche un permesso che non viene dato a 2.500 persone di montare su un aereo perché ritenute pericolose, troppo rischioso ospitarle a bordo di voli commerciali. Esiste anche una serie B dei pericolosi, diciamo così. La lista in questo caso include 16.000 nominativi, la media su entrambi gli elenchi è di cittadini americani, è circa del 10%, gli altri sono cittadini di altre nazionalità. Continuano ad arrivare le segnalazioni dei nostri ascoltatori. Giancarlo da Varese si è fatto due conti, mi sa, con l'orologio orologio, quel col fuso Italia-Cina, e sostiene che il Presidente del Consiglio è Superman. Perché no, no, abbiamo fatto i conti anche noi, ma è credibile. Diciamo che si è partito anche verso mezzanotte, ci vogliono 12 ore per arrivare, più col fuso orario è arrivato giusto alle 7 di sera, 8 di sera ora di Pechino, come Saro ci ha detto. Quindi e poi dorme è tutto tre vero. Ore. Allora, restiamo sempre alle notizie in ambito cinese. Il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero, naturalmente dedicato al celebre dissidente russo per tanti anni confinato in Siberia. Ebbene, ha dedicato il premio quest'anno al più famoso dissidente cinese. Si chiama Wu Jia, che era tra l'altro in lizza per il premio Nobel per la pace. Poi all'epoca arrivarono delle pressioni o comunque insomma delle reazioni poco tenere, diciamo così, del governo di Pechino, che diceva di non apprezzare l'eventuale proposta di Wu Jia per il Nobel per la pace. All'epoca, insomma, pochi giorni fa, il Nobel non è andato a Wu Jia, ma in questo caso, nonostante nuove minacce, nuove lettere stizzite di Pechino, il premio è stato assegnato a Wu Jia, che ricordo è uno dei più famosi dissidenti cinesi, soprattutto per le battaglie a favore dei malati di AIDS, per la libertà religiosa. Si trova tra l'altro in carcere dal 27 dicembre scorso. Soltanto ieri l'ambasciatore cinese presso l'Unione Europea aveva detto che assegnare il premio a Wu avrebbe offeso il popolo cinese e avrebbe causato seri danni alle relazioni Cina-Unione Europea. Quindi a questo punto attendiamo gli sviluppi della vicenda. Rubo ancora qualche secondo alla musica, perché qui abbiamo ascoltatori. Il fiocco di SMS. Affilatissimi. Dunque, Michele da Roma ci domanda, dobbiamo una risposta a Michele, cara Milano, se la devi tu. Ma Berlusconi lo sa che sono comunisti, per esempio? Questa è una domanda. Se ci allacciamo al discorso di Obama socialista, forse ormai non sono più neanche i cinesi comunisti. Poi c'è Cristina che chiede: domani mattina farà colazione con caffè e risatina latte. È pesantissimo questa battuta, altro che ridere. Come mai non ha detto al primo ministro cinese che hanno comprato, un attimo fatemi finire, che hanno comprato gli arbitri alle Olimpiadi, come ha detto ampiamente qua, chiede Paolo. E poi ancora Sandro osserva che Berlusconi è proprio ovunque. E infine Joel, con cui chiudo questa sapida sezione, chiede se ci siamo scusati per non aver riconosciuto Lorenzo Lamas. Ma quello sono io, caro Joel, sono io il colpevole. Torniamo sull'incidente di ieri. Sull'incidente di ieri, hai ricicciato Lorenzo Lamas. Ma io adesso, guarda Joel, se poi dopo parliamo, io so tutto su Lorenzo Lamas. Sky is warm. she's le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Dunque, Barack Obama, se permettete, se lo prendiamo da qualche parte, questo personaggio straordinario, non so perché da qualche tempo ci viene in mente Amleto, ci sono alcune cose che lo riguardano, che hanno delle letture multiple, che vanno un po' interpretate, vanno un po' capite, forse hanno effettivamente più facce. Allora abbiamo chiamato in causa per aiutarci a dirimere qualche dubbio degli ultimi giorni Guido Moltedo, giornalista capo della redazione esteri del quotidiano Europa, ma in questo caso soprattutto autore di un libro che si chiama Barack Obama, la rockstar della politica americana, che è uscito in una prima edizione qualche tempo fa, ma ora è riuscito, ristampato in una versione aggiornata alle ultime pirotecniche prestazioni del nominato, del candidato alla Casa Bianca per il Partito Democratico. Buon pomeriggio, Guido. Buongiorno a tutti voi, ciao Stefano. Dunque volevo un aiuto prima di tutto, perché sto guardando le televisioni americane, in particolare CNN e Fox News, e per esempio negli ultimi giorni si è molto pubblicizzato, e su questo vorrei un tuo aiuto, questo viaggio di Barack Obama a visitare la nonna, no? Perché è stata, credo con la maestria di Axelrod, dello stratega di Barack Obama, il momento in cui è sembrato come che Barack staccasse la spina, no? Quello che doveva essere detto era stato detto, fatto è stato fatto, scusate, io ho anche una vita, una famiglia, vado a pensare a questo affetto che rischio di perdere, arrivederci, grazie alla campagna elettorale, anche se mancano 10 giorni. Poi in realtà, appunto, guardiamo le televisioni e è un po' verdiana la situazione, partiamo, ma sta sempre qua, adesso se ne va a spasso per l'Indiana insieme a Joe Biden. Allora, tu che l'hai studiato il personaggio, ritieni che anche questa mossa familiare vada un po' tristemente inquadrata così nelle strategie elettorali dell'ultima ora? Beh, io penso che come in tutte le campagne elettorali, soprattutto in questa fase finale, c'è il personaggio, il protagonista che è il candidato, e c'è lo staff. E quindi penso che ci sia un'inclinazione di Obama di vedere la nonna Madeline di 86 anni, e qui ovviamente come molto legato, non solo come lo sarebbe chiunque, ma nel suo caso ancor di più, perché è stata un po' lei con il marito a crescerlo. Certo. Dopodiché ci sono le esigenze della campagna elettorale, ma io penso che farà visita, anche perché se a questo punto se non andasse, ci va, sono dolori, certo. Sono dolori veri, perché insomma viene vista come una cosa di cinismo, certo. E non ci sarebbero spiegazioni sufficienti per giustificarlo. E d'altra parte è anche vero che da un certo punto di vista, anche da un punto di vista puramente propagandistico, voglio essere cinico, è il ramo bianco della sua famiglia, quindi certo, è anche certo, un modo certo. per valorizzare anche questo aspetto, che è molto importante ovviamente nella narrativa di Barack Obama. E questa mi sembra un'intuizione molto intelligente. Senti, c'è in circolo negli ambienti, addetti ai lavori, osservatori e anche ambienti democratici veri e propri legati alla candidatura con entusiasmo di Barack Obama, c'è in giro questa che loro chiamano, in inglese chiamano un po' il nervosismo, il timore, un po' guardando questi sondaggi che oscillano veramente come ci fosse la tramontana, passano dal 13, poi arriva un sondaggio AP all'1%, poi c'è questo discorso su Bradley Effect, forse non tutti dicono come veramente voteranno, c'è, come dire, i numeri sarebbero meravigliosi, però sotto sotto c'è una paura, forse non sono soltanto spergiuri, forse non è soltanto prudenza, c'è qualcosa di più secondo te? Ma queste elezioni sono tante prime volte, la prima volta di un presidente, possibile presidente di colore, la prima volta di due senatori che si fronteggiano, la prima volta che due candidati non sono né un presidente uscente né un vicepresidente uscente, la prima volta che forse molti africano-americani vanno a votare, molti giovani. È la prima volta che un candidato viene dalle Hawaii e un'altra candidata alla vicepresidente viene dall'Alaska, due stati fuori dell'Unione Continentale. Ecco, tutti questi fattori fanno sì che c'è un livello di imponderabilità molto elevato questa volta, e secondo me, al di là dei sondaggi come è stato spiegato tantissime volte, contano quelli, non dico stato per stato, ma contea per contea, poi alla fine quello generale, hanno un valore relativo indicativo, certo, ma non definitivo ovviamente. Io penso che il fattore razziale sia stato molto esagerato comunque, e nel senso che io penso che nella chimica delle motivazioni dell'elettorato non c'è, diciamo, un fattore così preminente da condizionare tutti gli altri fattori, nemmeno quello razziale. Io non ho creduto neppure a quello dei valori la volta scorsa, che hanno detto che è stato determinante per un certo... può darsi di sì, ma in una fase appunto dell'economia come quella attuale, quantomeno questi fattori vanno miscelati, certo, con gli altri. Quindi resti abbastanza fiducioso nei confronti dei numeri che vengono esposti. Sì, e questo sì, assolutamente. E poi anche l'altro dato, secondo me, è quello appunto che Barack Obama è proprio lo specchio di una situazione demografica e sociale che è molto cambiata. Certo. Basti pensare che quando McCain doveva scegliere il suo vicepresidente, uno dei candidati più forti era Bob Jindal, che è l'attuale governatore di uno stato del sud della Louisiana, figlio di due genitori dell'India. Certo. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non quadra nella descrizione di un'America in cui il fattore razziale diventa il fattore determinante. Senti, per concludere rapidamente, il tuo libro UTET porta questo titolo: Barack Obama, la rockstar della politica americana, e si aggancia in un certo senso a quell'effetto straordinario, esplosivo dell'avvento, no? Dell'apparizione di Obama, che a lungo è stato osservato ma anche in un certo senso un po' accusato di essere forse troppo rockstar, troppo comunicatore, troppo postmoderno. Alla luce delle ultime settimane, di quello che hai visto, in due parole, c'è un'evoluzione da questo concetto, da questa etichetta? Sì, guarda, io penso che lui rimanga un rockstar, anche gli ultimi comizi sono da rockstar, non certo. Sono da leader politico, e anche il tipo di elettricità che suscita nella folla non è di un politico, è di qualcuno, c'è un'attesa intorno a lui che è veramente quasi esagerata, secondo me. C'è un movement, ecco, io direi che anche il vecchio detto italiano di Nenni, piazze piene, urne vuote, in questo caso non ha molto senso nel caso di Barack Obama. Io vedo che le sue piazze piene, in questa grande attesa intorno a lui, siano persone che poi non vanno lì a fare gli spettatori della rockstar, sono persone che poi si attivano, vanno in giro, stanno facendo una campagna formidabile per lui. Va bene, grazie ai pareri di Guido Molteto, che vi ricordo trovate radunati nel suo libro. Il titolo è Barack Obama, rockstar della politica americana. Step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we scrape. All boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. We're trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, been working in the town, been in trouble since I set my suitcase down. Ain't got nothing for you, had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Sky's full of fire, the pain is pouring down. There's nothing you can sell me, I'll see you around. My powers of expression and thought thought so sublime that never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long. Elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. I'm Joe the Plumber. I'm Joe the Plumber. I'm Joe the Plumber. Spread the wealth. I'm for both to work harder just to pay more taxes. Obama wants my sweat to pay for his $1 trillion in new spending. I'm Joe the Plumber. Barack Obama, higher taxes, more spending, not ready. I'm John McCain. And I approve this message. Ci stiamo rovinando gli occhi tutti e due perché c'è la bellissima Megyn, che Dio sempre la protegga. Ma non per quello ci rovinamo gli occhi. La bellissima Megyn di Fox News che ci sta facendo vedere un cioccolatino chiaramente a forma di un politico. A me sembrava Bush, però a me sembrava Dukakis, penso un po', mi sembrava ci fosse scritto sopra Dukakis. È in collegamento col suo socio che hanno spedito a Baghdad, le dimostrazioni il fatto che ha la camicia stazzonata. Sempre più sgualcita. E non ha il trucco, però la bellissima Megyn intanto parla un po' di campagna elettorale facendoci vedere cioccolatini a forma di candidato. Quello che avete sentito poco fa è l'ultimo spot messo in circolazione, messo nelle televisioni dallo staff di McCain Palin, e dà un po' il segno della questione dal punto di vista repubblicano. Attaccare, attaccare, attaccare, ma non attaccare sui temi sensibili, perché ormai forse è tardi, sui coni d'ombra di Barack Obama, le famose relazioni con Ayers, Rezko, Jeremiah Wright, ma attaccare su siamo tutti Joe l'idraulico, siamo tutti Joe l'idraulico, e non vogliamo che un eventuale presidente Barack Obama ci metta le mani nelle tasche. E dall'altra parte succede però invece che l'invenzione di un nuovo spot, un servizio che dà tutta un'altra ambientazione. Sentite qui. Well, Rob, the people who are going to be gathering here on November 4th are going to have a pretty good view of the Chicago skyline, as you can see behind me. But after two straight presidential elections, questo è uno di quegli inviati che vengono spediti, non capisco mai bene perché, alle 5 del mattino, non comodamente a mezzogiorno, a fare il loro servizietto. Lo fanno di notte con addosso una giacca a vento terrificante, però lui è andato lì per far vedere agli americani che i falegnami hanno cominciato a lavorare, i carpentieri hanno messo mano agli strumenti, al Grant Park, il parco dove Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, fece la messa nel 1979 davanti a 350.000 persone, dove il festival Lollapalooza così metteva in scena le sue formidabili giornate, nel luogo dove si va a fare la parata se i Chicago Bulls vincono il titolo, ma mi sa ci vorranno parecchi anni. Si prepara la festa per Barack Obama presidente, sapete che è un senatore dello stato dell'Illinois. Io non lo so, io avrei aspettato un attimo a mandare i carpentieri, che dici? Rischia la gufata qui. Rista la gufata, lui fa finta di niente, dice per carità non ne vuole neanche parlare, però si è messa in moto la grande macchina. Tra l'altro i giornalisti per andare lì dovranno pagare un sacco di soldi, $1,000 per una postazione, ma lo staff di Barack Obama fa sapere che quei $1,000 sono per coprire le spese, non certo per guadagnarci. Ma i $1,000 sono in anticipo, certo, se quindi vuoi... se perdi diventa una spesa inutile. Sempre per sostenere le vacanze di Barack Obama a quel punto. Torniamo a Pechino, dai. Allora, cambio di scena con Berlusconi, che è arrivato da pochissime ore a Pechino. Domani aprirà ufficialmente, assieme agli altri capi di Stato europei e asiatici, l'importantissimo vertice ASEM. Oggi però ha già incontrato Hu Jintao, di cui abbiamo parlato prima, ha incontrato anche Wen Jiabao e ha ricordato insomma che spera in una Cina democratica per il futuro, ma ha incontrato anche il nostro Saro. Soprattutto non si libera di Saro, eccolo. L'incontro è finito da una mezz'oretta, è andato avanti per un'ora e mezzo, ed è stato, diciamo, all'insegno della positività. Infatti abbiamo ascoltato appunto alcune testimonianze e di casi di successo selezionati dall'ambasciatore Sessa in persona, appunto di grandi aziende come la Generali, aziende appunto che hanno qui aperto delle attività e hanno avuto uno sviluppo enorme grazie appunto, hanno rischiato i momenti in cui nessuno credeva alla Cina e ora stanno raccogliendo dei frutti. Poi appunto ha intervenuto il presidente Berlusconi, con chi ha praticamente ribadito appunto la sua impressione sempre meravigliata dello sviluppo della città, e si è soffermato un po' anche su temi di casa nostra, appunto ha parlato di un po' delle negatività e delle positività in questo momento in Italia, appunto ha fatto un programma appunto di quello che sta facendo, di quello che faranno. Che cosa ha detto in particolare? Ma il fatto appunto che loro lui ha deciso appunto di prendere in mano la situazione, di poter di sviluppare il programma che ha appunto concordato con gli alleati. Ha parlato di scuola, ha parlato appunto che lui dice appunto che non è possibile che ci siano 5.500 corsi universitari dove ci sono addirittura anche dei corsi con uno solo scritto. Ecco, è l'insegna della razionalità. Non ha parlato però delle proteste di questi giorni? No, non c'è stato nessun accenno, non c'è stato nessun accenno. Io per un primo momento pensavo che non dessero poi la parola a nessun altro oltre a quelli appunto designati, poi alla fine appunto hanno dato la possibilità anche a molti di parlare, e diciamo ci si è concentrati anche un po' più anche sulla Cina in verità, poi alla fine, no? Perché è un paese difficile, un paese che però presenta delle opportunità, ha parlato appunto anche del fatto che è stato lui a insistere di allargare il G8 al G14, adesso è diventato un G20. E quindi lui ha detto che appunto ci sarà poi, verrà fatto, lui sarà presidente del prossimo G20, poi che si verrà fatto poi il prossimo anno, e lo sta già organizzando e diciamo qui i locali, il presidente della Cina, Hu Jintao, Wei Jiabao, che li ha incontrati prima del nostro incontro, sono rimasti molto entusiasti di questa idea appunto di essere invitati appunto all'incontro del 15 novembre a Washington. Ci sono stati dei fuori programma? Di solito Berlusconi a volte alleggerisce le conversazioni con delle barzellette. Ci sono stati degli interventi appunto anche sul Milan, ha proposto, ha chiesto appunto se qual era la nostra idea, se prendere o meno un calciatore cinese nel Milan per esempio, no? Si è parlato anche dei suoi capelli, perché c'era uno del pubblico che aveva una bella chioma, ha detto io la invidio, no? E poi gliel'ha toccata e gliel'ha carezzata, si è fatto veramente ridere tutti. No, è stato diciamo molto distensivo come incontro. Barzellette non le ha dette questa volta? No, ha detto una barzelletta finale, finale appunto in cui ovviamente c'è sempre lui sopra l'aereo famoso, con lui il Papa, Bush, il presidente tedesco e quello inglese, appunto sono sempre questi sketch molto simpatici, no? Insomma, è finita a barzellette poi. Sì, questo incontro di Berlusconi con la comunità d'affari italiana in Cina, con il nostro Saro Capozzo. Ci torneremo sopra con altri osservatori, i nostri più sentiti ringraziamenti a Saro che ci ha tenuto così dentro la notizia. Questo è Jefferson Ming, sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Cheppini, a Milano Pietro Lacorte, l'indirizzo jeffersonming@radio24.it. Replica stasera alle 9, diretta naturalmente attorno alle 4 domani, immancabilmente qui da Radio 24. Ci risentiamo.